Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, buongiorno a voi, è quasi pronto, anzi direi è pronto, mancate solo voi, ci siete? Mandatemi un messaggio, chiamatemi al numero verde, insomma fatemi capire quanti siete, così io metto le sedie, aggiungo coperti, siamo sempre di più. Tutto questo è magnifico e io voglio ringraziarvi davvero di cuore. Anche oggi abbiamo un invitato d'onore, ma prima di presentarvelo vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di compilare il questionario sul sito. Il dottor Ungaro e la dottoressa Reverso stanno selezionando i protagonisti delle prossime puntate, ma c'è un'altra buona ragione. Come ormai sapete, per tutti voi che avete compilato il questionario e per chi lo compilerà da adesso in poi, ci sono due smart box in regalo. Per riceverle dovete seguire Mangia con me con attenzione e quando sentirete questo suono inviate rapidamente un SMS al 349-238-6666 con la mail con cui avete compilato il questionario. Tutto chiaro? Allora seguitemi e state pronti. Quando sentirete questo suono? Solo allora e non ora mandate un messaggio al 349-238-6666 e adesso che vi siete accomodati che entri il nostro invitato d'onore. Marco, 55 anni, sposato con Mari, padre di due figli, Tommaso e Matteo, è insegnante e scultore. Si sposta in bicicletta e come cocciante pedala senza fretta nella campagna del Monferrato. Ma la sua vera passione non è il pedale, ma il piede. È un gran camminatore e passo dopo passo ha percorso distanze molto molto lunghe. L'ultima vacanza io, mia moglie e due amici abbiamo camminato le Fiandre. Quest'estate stiamo pensando, probabilmente verrà la stessa cosa in Ungheria. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Ecco il fornaio con il suo vassoio. Sua moglie Mari è figlia di un mugnaio e come insegnano le favole sforna per tutta la famiglia pane e focacce. Il cibo che non può mancare per me è proprio il pane. Non mi sento molto vincolato a degli orari sui pasti, non sempre per me è necessario dover soddisfare tutti i pasti della giornata. E la cosa che mi piace di più del mangiare è quello di poter condividere il desco con altre persone. Marco vive i cambiamenti serenamente, anche se una nota stonata c'è. Si sente un po' affaticato, forse perché non riposa bene. Alla sera si addormenta facilmente, ma di notte, quando si sveglia, non riesce più a riaddormentarsi. Può capitare alle 2 di notte, può capitare alle 3 o alle 4, ma se mi sveglio non riesco più a riprendere sonno. Diventa un problema non tanto la mattinata, ma poi portare avanti poi tutta la giornata. Marco in linea con noi, ciao Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Marco, sei pronto per farti scolpire il tuo nuovo stile alimentare? Direi di sì. Devi dirmi però che tipo di materiale sei, marmo, legno o creta? Dovessi scegliere, scelgo un materiale che io come scultore uso pochissimo, che è il legno. Legno. Perché è un materiale fluido, la pianta modifica il suo aspetto a seconda dello spazio che la circonda e quindi mi sento più vicino al legno che non agli altri materiali che hai elencato. Dottor Ungaro, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dottore, Marco è un caso molto interessante perché non è in sovrappeso, è molto attivo, cammina, pedala. E devo dire che molti dei suoi coetanei gli invidierebbero quel fisico asciutto. Potete anche voi andare a vedere la foto di Marco sul nostro sito e quindi verrebbe da chiedersi, ma perché mai Marco partecipa a Mangia con me? Ma c'è sempre una buona ragione per farlo. Sì, è verissimo, cioè ad una prima analisi Marco ha un'abitudine alimentare non solo, uno stile di vita molto sano, però è anche la dimostrazione che il ruolo dell'alimentazione non va misurato soltanto sulla base dei chili di troppo, ma in una maniera un po' più approfondita di cui noi spesso parliamo. Secondo me, leggendo un po' il caso di Marco, la parola chiave potrebbe essere ritmo. E perché ritmo? Perché in realtà il nostro organismo funziona ed è in parte governato da dei ritmi che chiamiamo ritmi biologici, ritmi che governano le funzioni vitali dell'organismo, il principale del quale è il ritmo giorno-notte, che è detto ritmo circadiano, ma scopriremo che la nutrizione e questi ritmi sono in gran parte collegati, e quindi il ruolo del cibo è anche quello di favorire l'espressione, l'emergere di una ritmicità corretta. Marco, a proposito di ritmi, tu hai qualche problema di sonno, dormi poco, quando ti svegli spesso non ti riaddormenti più, però Marco sei in buona compagnia perché circa 12 milioni di italiani hanno problemi con il sonno. Com'è andata questa notte? Quando ti sei addormentato e a che ora ti sei svegliato soprattutto? Diciamo che è stata una notte di quelle che giudico medie, nel senso che sono andato a letto verso le 10:30, ho letto fino verso mezzanotte, poi mi sono svegliato e quando ho guardato l'ora erano circa le 3:30. Sono stato sveglio di nuovo un po', ho letto ancora per un'oretta e poi penso verso le 5 di essermi riaddormentato. Dottor e questo fino alle 6:30 quando la sveglia suona. Dottor Ongaro, noi possiamo mettere in conto una notte insonne, magari dopo una cena particolarmente abbondante, ma a parte questo, che c'entra la dieta con il sonno? Ma la dieta con il sonno in realtà c'entra di più di quello che uno può pensare, perché i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine in particolare e grassi, hanno degli effetti abbastanza importanti sui ritmi biologici. In particolare alcuni macronutrienti favoriscono la nostra accensione, chiamiamola così, quindi favoriscono lo stare sveglio, mentre altri favoriscono il sonno. Molto ha a che fare con il ruolo che i nutrienti hanno sulla formazione dei neurotrasmettitori cerebrali macronutrienti hanno degli effetti in qualche modo opposti tra di loro su questa formazione di neurotrasmettitori e quindi anche sul favorire il sonno o impedirlo. Allora, dottor Ongaro, partiamo da qui e lanciamo il nostro sondaggione. Intanto io vi invito subito a chiamare all'800 24 00 24, sentiamo il sondaggio e poi vi dico che cosa faremo ricevere a casa agli ascoltatori che risponderanno correttamente, ma come sempre argomentando. Andiamo. Grassi, proteine o carboidrati? Chi dei tre e perché ti aiuta a fare un sonno da re? (800) 24 00 24 per rispondere al primo ascoltatore che, chiamando il nostro numero verde, ci darà la risposta esatta. Faremo arrivare a casa un sonno perfetto, i segreti per riposare, dormire e vivere meglio di Ferini Strambi, mentre per gli ascoltatori che vorranno provare a rispondere su Facebook, un CD molto bello degli Alti e Bassi, Medley, e quindi scatenatevi su Facebook o chiamate all'800 24 00 24. Dottor Ongaro, anche per prendere un po' il ritmo con noi insieme a Marco. Sì, anche perché cerchiamo di spiegare un po' meglio questa relazione, cioè il fatto che noi non sfruttiamo le proprietà che gli alimenti hanno sul generare questa ritmicità fa sì che i nostri ritmi circadiani si appiattiscano un po', cioè diventa un po' tutto uguale, con delle curve meno accentuate, cosa che può rendere un po' più difficile il sonno, un po' più difficile la concentrazione, magari anche il tono dell'umore può essere un po' peggiorato, cioè una dieta piatta e monotona può appiattire anche la risposta del nostro cervello. E chiaramente invitiamo come sempre gli ascoltatori a confrontarci con noi, perché come questo è un problema per Marco, noi vogliamo trovare una soluzione per Marco, ma anche per tutti gli altri, molti altri che possono condividere con lui questo problema. Magnifico, dottor Ongaro, ma come parla bene il dottor Ongaro, Marco! E come definiresti allora il tuo stile alimentare? Ma il mio stile alimentare, diciamo che sono quasi un vegetariano, ma non dichiarato, non ideologico, nel senso che preferisco in maniera decisa le verdure, le frutte rispetto alle carni. Con questo non disdegno, quando c'è occasione, anche di mangiare carne o pesce. Certo. Ecco, però devo dire prevalentemente io sono favorevole alle verdure, ecco, ma proprio come scelta, come gusto. Ma secondo te è un monotonino, molto monotono, vario, equilibrato, sfizioso? No, io direi molto vario. Nel senso molto che, vario? Sì. Sei sicuro, che, Marco? Cioè, con una, sfruttando bene tutte le possibilità anche all'interno della varietà di ricette disponibili di legumi e verdure si possono costruire dei pasti assolutamente vari ed invitanti e voglio dire anche divertenti. Questa nota del divertente mi piace, Marco. Allora noi andiamo, così si presenta Marco, ma andiamo a sentire la sua giornata tipo. Marco suona la campanella alle 6:30. Per colazione preferisce caffè e latte con un dolce. Nell'intervallo fa pausa con un caffè senza zucchero. A pranzo, nella sua cartella, ci sono verdure e pane. Nel doposcuola, Marco torna a concedersi ancora caffè sempre senza zucchero. La vera opera d'arte è la cena. Grazie a sua moglie, d'inverno non mancano mai le zuppe di verdura e legumi con cereali e in primavera-estate il piatto forte è la pasta con verdura e legumi. Gli attrezzi del mestiere, quelli che l'artista Marco usa più spesso per nutrire corpo e mente, sono pane, pasta e riso. Pollice verso per pesce, carne e pollame. Io mi ricordo. Dottor Ongaro, dov'è il punto debole della dieta di Marco e chi si può riconoscere in lui? Ma allora facciamo una premessa, noi ovviamente stiamo facendo un percorso di formazione e di informazione sul ruolo degli alimenti e quindi stiamo trattando vari punti. Marco ha un'alimentazione sana e questo non ci piove, bisogna essere oggettivi, però ha anche un problema che non necessariamente è legato al 100% all'alimentazione, ma può avere un legame con questa. Lasciando stare le ragioni, chiamiamo così, etiche, che sono assolutamente condivisibili, Marco fa una scelta di principio sulle proteine animali e le proteine, non dico che le escluda del tutto, ma sicuramente hanno un ruolo minoritario rispetto agli altri nutrienti che assume. Ecco, io credo che lì possa esserci un po' la connessione con quello che dicevamo prima, cioè con una perdita di ritmo, proprio perché le proteine animali hanno un ruolo ben preciso nello stimolare determinate risposte cerebrali. Allora, vogliamo affidarci ai consigli della dottoressa Paola Reverso, che è in linea con noi. Buongiorno, dottoressa Reverso. Buongiorno. Se la vostra dieta è un po' sbilanciata a favore quindi di alcuni alimenti, chiamateci, mi raccomando, 800 24 00 24, perché la dottoressa Reverso ci aiuterà a rimpostare l'orologio biologico con le giuste combinazioni alimentari. Dottoressa Reverso, è pronta? Allora, io vorrei chiederle come dobbiamo distribuire gli alimenti della dieta mediterranea per ottimizzare le nostre prestazioni, le nostre funzioni vitali, per stare bene. Per stare bene dobbiamo innanzitutto darci energia, quindi lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, i cereali non dobbiamo mai dimenticarceli sotto forma di chicchi, sotto forma di fiocchi oppure utilizzati in farina. Marco e sua moglie sono dei gustatori di pane e di pasta, quindi mi sembra che lui utilizzi anche la pasta integrale, pane fatto in casa, quindi siamo già sulla buona strada. Bisogna però introdurre un pochino queste proteine animali, perché senza le proteine animali rischiamo di avere una carenza di vitamina B12, per esempio, che va a braccetto con l'acido folico, sono amici stretti, insomma, importantissima per le nostre funzioni cellulari e la troviamo in tutti gli alimenti di origine animale. Per questo, ma se dottoressa Reverso, non ci piace il pesce, mangiamo poca carne, non amiamo il pollame, restano solo uova e latticini, e il colesterolo? Il problema è proprio questo, quindi dobbiamo cercare di modificare lentamente, in modo anche rilassato, i nostri gusti e magari usando delle spezie, delle erbe aromatiche, delle ricette nuove, introdurre piccole porzioni di pesce, se proprio non è sgradito, piccole porzioni di pollame, petto di pollo, fesa di tacchino o di carni rosse. Quindi il menù che ho pensato per Marco prevede una colazione con delle proteine, perché le proteine contengono, come gli alimenti di origine animale, stimolano la produzione di catecolamine e quindi svegliano. Quindi crespelle mediterranee, una ricettina molto sfiziosa al mattino, poi magari a pranzo va bene il pane integrale, come già abituato a mangiare Marco, con dei legumi, possibilmente proviamo a introdurre piccole quantità di proteine animali, proviamo, iniziamo. A cena invece vanno benissimo i carboidrati, quindi cereali in chicchi per esempio, oppure la classica nostra pasta della nostra dieta mediterranea, perché contengono triptofano. Il triptofano è il progenitore della serotonina, che a sua volta ha tantissime funzioni, tra queste è anche a sua volta il precursore della melatonina, quindi l'ormone sensibile alla luce che orchestra proprio il ritmo sonno-veglia. Dottor Ongaro, c'è anche una distribuzione, non solo dobbiamo imparare a mangiare, a cosa mangiare, ma anche a quando, a distribuire questi alimenti nel corso della giornata. Abbiamo dato un aiutone per il sì, quiz, sì, Nicoletto. un aiutone infatti, però 800 24 0024. No, diciamo questo, concordo pienamente con quello che ha detto Paola e sottolineo il fatto che proprio ritrovare questa ritmicità, svegliandosi un po' di più al mattino e sfruttando di più la proprietà calmante e favorente il sonno di alcuni tipi di alimenti la sera, è quello secondo me che potrebbe dare una mano a Marco. Forse non risolverà del tutto l'insonnia, ma contribuirà. Anche l'uso del caffè, per esempio, concentrare i due caffè un po' più nella prima parte della mattinata, contribuisce a svegliare e farà esaltare l'effetto rilassante degli altri alimenti nel pomeriggio e nella sera. Intanto chiamateci se la vostra alimentazione, se la vostra dieta vi sembra particolarmente piatta, un po' monotona, se preferite alcuni alimenti, ma io ho ancora 30 secondi di tempo perché con i consigli del dottor Ongaro e della dottoressa Reverso ci auguriamo che Marco e le persone che si riconoscono in lui riescano un po' a rinsincronizzare il loro orologio biologico interno, a riprendere il ritmo. Ma allora che ritmo hanno pensato per Marco i nostri alti e bassi? Qui con me Andrea. Ciao Andrea. Eccoci, ciao Nicoletta. Per Marco abbiamo pensato al ritmo del cammino e lui è un camminatore e quindi proponiamo un brano evocativo e famosissimo dei Beatles che rappresenta una strada lunga, un cammino tortuoso. È un po' la strada che ora dovrà percorrere il nostro Marco, una strada lunga per la quale occorre avere un ritmo, occorre avere il passo giusto. Quindi sarà una nuova sfida che potrà essere percorsa seguendo ovviamente i consigli dei nostri esperti. Avete pensato che musica sarà, che brano sarà dei Beatles? Dopo i mercati e il meteo lo scoprirete. Intanto provate anche a scriverlo al 349-238-6666. Andrea è qui, magari vi allunga un CD. E intanto vi ricordo il consueto e quotidiano saltino sul nostro Daily Lab. A tra poco. Daily Lab. I consigli della salute. Essere e benessere. The long and winding road to your door will never disappear. I've seen that road before. It always led me here. Down, down, down. Questo è il brano che gli alti e bassi hanno scelto per te. Ti piace? Direi che è molto indicato. Ti rappresenta? Direi abbastanza, sì, anzi, certamente. Francesca è stata la prima ascoltatrice, caro Andrea, che ne sono arrivati tantissimi di SMS, che ha indovinato il titolo di Bene, questo brano. Mi fa piacere. E quindi a Francesca le regaliamo un nostro disco da cui è tratto questo brano, l'album Medley. Allora, intanto abbiamo Luciano da Napoli, Federico da Milano e Francesco da Treviso, una batteria di domande da sottoporre ai nostri esperti. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa, io ho 51 anni, sono ormai 20 anni che ho un tipo di alimentazione che so che è sbagliata, nel senso che io non faccio non faccio colazione, non pranzo, ceno e a fine, prima di andare a letto, un po' di latte con biscotti, non mangio pasta tutta la settimana, tranne che la domenica. Ma quando mangia, scusi, colazione no, caffè latte alla sera? E quando mangi? Sì, durante la giornata 4 caffè, 5 caffè. Ma... però il problema mio è che io comunque, anche mangiando poco, ingrasso sempre. Però se faccio le analisi sono sempre perfette, sempre a posto. Ma un caso straordinario, dottor Ongaro, Luciano. Infatti, Ma è un caso da studiare. Un caso che spiega due cose, Nicoletta. La prima è che ovviamente non è solo sulla quantità che si impatta il nostro metabolismo, e quindi pur mangiando poco, se si sbaglia ciò che si mangia, si tende ad ingrassare comunque. E l'altro aspetto è che ci vuole molto tempo prima che il nostro corpo reagisca completamente e negativamente ad un'alimentazione scorretta. Quindi non viviamo sugli allori, cioè se gli esami sono a posto allora sto bene, ma dobbiamo prevenire. Quindi quando sappiamo che l'alimentazione non è corretta, cerchiamo di cambiarla prima che sia tardi. Insomma, ci ha dato due brutte notizie insieme: il fatto che non basta ridurre la quantità degli alimenti, anzi soprattutto saltare i pasti come molti fanno per ritrovare la linea, e che poi gli effetti di queste nostre cattive abitudini, di uno stile di vita scorretto, non si vedono nell'immediato ma nel lungo periodo. Comunque ce le segneremo. Federico, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno, salve. Allora, io praticamente premetto che ho 48 anni, faccio attività sportiva non tanto forte, però tre volte alla settimana vado in palestra con regolarità. E da quando un 4-5 anni fa ho ripreso a muovermi e a mangiare in maniera diversa, ho notato dei grossi miglioramenti e credo di essere abbastanza in forma. L'unica cosa è che la mia alimentazione per comodità è molto ripetitiva. Allora, io mangio molto a colazione perché mi sveglio molto presto e mangio generalmente del latte con i biscotti, poi mi faccio un panino col tacchino quasi sempre, tre noci e magari anche un frutto, in alternativa al tacchino se non ce lo mangio del formaggio grana o della ricotta. A pranzo mangio una porzione normale di pasta condita più semplicemente possibile, quindi un pomodoro e basilico, poi mangio della carne di tacchino ai ferri e un'insalata sempre, e la sera sto un po' indietro perché mangio un 3 di pesce lesso con verdura a volontà e pasta e basta, niente pasta, niente pane. Però devo dire, Federico, che c'è Roberto Scaltritti che regia la parte tecnica, che insomma è quasi stupito dalla sua dieta, ma vorrei capire che cosa ne pensa invece la dottoressa Reverso. Se fa tanta attività fisica, io aggiungerei un pochino di carboidrato alla sera. Perché? Perché comunque il muscolo ha bisogno di ripristinare le scorte di glicogeno. Il glicogeno cos'è? Il nostro magazzino, diciamo così, del glucosio. Nel nostro sangue, nel nostro corpo, poi alla fine circola il glucosio che deriva dal metabolismo dei carboidrati, della pasta, del pane, dei cereali e della frutta anche. Quindi noi dobbiamo comunque alla sera un pochino, visto soprattutto se si fa attività fisica nella giornata, un pochino di glicogeno è il caso di rimagazzinare. Quindi basta semplicemente magari mettere una fetta di pane integrale, magari un pochino di riso integrale come contorno. E voilà, e la dieta di Federico ritorna bilanciata. 800 24 00 24, la dottoressa Reverso vi ha dato praticamente la soluzione del nostro quizzettone. Quindi chiamateci, perché noi abbiamo in linea poi Francesco da Treviso. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Non vi faccio i complimenti perché ve li fanno tutti. Ma no, ma ce li faccia pure, che noi siamo felici. Comunque, Francesco, sì, volevo un consiglio. Allora, io faccio circa un'ora di camminata al mattino, ho 57 anni, faccio un'ora di camminata al mattino, 7-8 chilometri ogni mattino. Poi ho un'alimentazione corretta, mangio pasta mezzogiorno di farro, 90 grammi, integrale. Sì. E beh, la sera mangio verdura, bianca. Volevo sapere se la pasta integrale va bene tutti i giorni o se devo alternare, perché certi dicono è meglio integrale che quell'altra. Sì, allora, dottor Ongaro, Francesco, spero che vada sul nostro fantastico Sile a fare le sue passeggiate, visto che sono a Treviso anch'io, magari per questo ci incontriamo. Gliel'ho passato. Bene, bene. E poi per quel che riguarda la pasta, io direi magari variamo un po', cioè nel corso della settimana proviamo anche degli altri cereali integrali, per esempio il riso integrale, che per di più è privo di glutine, è sicuramente da introdurre e da considerare nell'insieme dei piatti che lei sceglie durante la settimana. Ecco, io vi ricordo che la dottoressa Reverso prepara per voi delle ricettine straordinarie, quindi approfittatene, andate sul sito, andate a vedere le ricette, i suggerimenti che la dottoressa Reverso dà ai nostri partecipanti e esercitatevi, cucinate, esplorate nuovi sapori, combinazioni. Andate sul sito di Mangia con me, sulla pagina di Mangia con me, trovate tutte. Marco, tu che hai avuto un po' i consigli del dottor Ongaro e della dottoressa Reverso, grande camminatore, hai avuto anche il brano degli alti e bassi, adesso per te una cartolina che ti immagino ti farà molto piacere, perché dedicata da una persona che a piedi ha percorso 108.206 chilometri in 467 giorni. In linea con noi abbiamo Eddie Cattaneo. Ciao Eddie. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ciao, qua bisogna sostenere Marco, che con te condivide la passione per il cammino. Sì, io innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo per questa avventura con Mangia con me. E per quanto riguarda la strada, una buonissima strada e buonissimi incontri che gli capiteranno di sicuro lungo le strade dell'Ungheria, di incontrare gente e di lasciarsi cullare dal ritmo della strada, che secondo me proprio anche non avrà molti problemi ad addormentarsi, credo, alla sera. grazie Eddie. Marco, e tu lungo la tua strada hai incontrato la dottoressa Reverso e il dottor Ongaro, che ti così daranno dei consigli per allenarti al tuo benessere. Come ti senti da questi profili? Ti senti in sintonia con quanto ti hanno suggerito? Pensi di farcela? Sì, certamente varrà la pena tentare, e sono convinto che sarà comunque divertente questa nuova esperienza con Mangia con me. Dall'altra ringrazio Eddie Cattaneo per gli auguri, insomma, e prenderei anche questo spunto per invitare le persone a camminare, perché non è soltanto un'attività sportiva, direi, ma è un modo per conoscere il mondo, e soprattutto questo è il valore del camminare, un modo per incontrare le persone, parlare, capire come certo sono diverse da noi e accettarsi nelle diversità. Allora, grazie Eddie Cattaneo, hai fatto centro, grazie per la cartolina che hai regalato a Marco. Noi ci sentiamo presto, e a proposito di cammino, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. A tra poco. Essere e benessere. Ed eccoci tornati insieme. In linea con noi abbiamo il nostro ospite d'onore, Marco, che è grande camminatore, ama la natura, ci sta suggerendo anche il cammino come proprio come stile di vita, no? Non solamente per come attività sportiva. Ma Marco, rimane il tuo problema dell'insonnia. Anche stanotte Marco si è svegliato e ha fatto fatica a riaddormentarsi. Io tutte le volte che parlo di sonno non posso fare a meno di pensare di invitare il professor Ferini Strambi. Buongiorno professore, che è in linea con noi. Buongiorno, naturalmente. Buongiorno carissima. Professore, vogliamo farlo dormire un po' il nostro Marco, che si sveglia e poi non riesce più a prendere sonno? Secondo me facciamo anche felice la moglie, perché quando Marco mi ha detto io sono lì che leggo, Il problema, ecco, che il discorso fondamentale è questo: quando c'è un problema non tanto di addormentamento quanto di risveglio nel corso della notte, la cosa è un pochino più complessa, nel senso che in queste situazioni vale sempre la pena comunque studiare il soggetto con delle metodiche oggettive. Cioè, in altri termini, quando il soggetto fa fatica ad addormentarsi, riusciamo più facilmente a scoprire quale può essere, diciamo così, la possibile causa. Diventa più problematico capire invece quando c'è un problema di mantenimento del sonno. E quindi sicuramente possono essere diverse le cause, possono essere legate ad esempio anche a un problema di scarti alle gambe, un problema respiratorio, al fatto che molto spesso ci sono dei soggetti che dormono magari le prime 2 o 3 ore di sonno, in queste 2 o 3 ore esauriscono completamente la loro esigenza di dormire, proprio perché appunto fanno tanto sonno profondo, e poi invece di arrivare all'alleggerimento del sonno arrivano a un risveglio vero e proprio. Quindi, professor Ferini-Strambi, il consiglio che vogliamo dare a Marco qual è, in sostanza? Ma il consiglio è questo, cioè sicuramente al momento del risveglio cercare di non diciamo facilitare l'ulteriore diciamo così allerta degli stati della parte dei centri della veglia. Cioè, in altri termini, purtroppo spesso quando uno si risveglia nel corso della notte comincia a fare delle cose, comincia a muoversi, comincia a leggere, ecco. Invece il consiglio è questo, cercare di non attivarsi eccessivamente, perché altrimenti il rischio poi è quello di veramente di far fatica a riprendere sonno. Professor Ferini-Strambi, grazie per essere stato con noi, come sempre. Tra l'altro noi abbiamo abbinato al nostro quizzettone proprio uno dei suoi libri, e quindi ci auguriamo che i nostri ascoltatori all'800 24 00 24 rispondano in modo corretto. Grazie professore, grazie a voi, buona giornata. Marco, però, se proprio di notte insomma non riesci a dormire, gli alti e bassi hanno un suggerimento per te. Eccoci. Prima una canzone evocativa, adesso il ritmo. Per chi non dorme la notte, dedichiamo un brano che è il principe della notte, la febbre del sabato sera, Night Fever. E quindi, Marco, se non dormi, balla. Marco, è un bel balletto, che dici? Ma potrebbe essere anche questa un'alternativa. Va un pochino contro i suggerimenti del professor Ferrini. Però, se proprio non... Sarebbe però una maniera divertente per occupare la notte. A proposito di un'altra strada, abbiamo Anna Maria che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, sono felice di parlare con lei e di poter dire grazie al dottor Ongher e alla dottoressa per i consigli che danno ogni giorno. Grazie Anna Maria. Senta, io ho risposto alla domanda che avete posto. Sì. A mio avviso, appunto, bisogna mangiare carboidrati, cioè una dieta mediterranea sostanzialmente, perché questo cibo permette il formarsi di un precursore della serotonina, sì, e anche della melatonina, e per cui è più facile addormentarsi. Dottor Ongaro, mi sembra che Anna Maria ha risposto giusto, e aggiungiamo che se riusciamo a suddividere perfettamente questo introito, cioè a prediligere i cereali alla sera e le proteine al mattino, ritroviamo questa ritmicità di cui abbiamo parlato. Ricordiamo anche una cosa, Nicoletta, le tecniche di rilassamento, non scordiamoci mai questo aspetto qui. Siccome Marco mi pare anche molto predisposto ad un certo tipo di stile di vita, ricordiamo tutte le tecniche di rilassamento a partire dalla meditazione, che sono fondamentali per aiutare il sonno. Insomma, Marco avrà una giornata pienissima tra correggere il suo stile alimentare, gli facciamo fare le tecniche di meditazione, cammina, pedala, se ascolterà gli alti e bassi lo mandiamo in discoteca. Marco, non so se hai fatto un buon acquisto a venire a mangiare con me, ti stiamo stravolgendo la vita, ma anche abbiamo cambiato un po' la vita di Davide, che è in linea con noi, il nostro Davide. Ciao, buongiorno a tutti, in diretta dalla Toscana, da Livorno. Sì, sempre qua. Senti, tu, così raccontiamo anche ai nostri ascoltatori, che dopo che la dottoressa Reverso ti ha seguito passo passo con i suoi profili, le sue ricette per 4 settimane, adesso tu entri nel mettiti alla prova. Cioè i nostri partecipanti iniziano a metabolizzare un po' i consigli della dottoressa Reverso e provano a diventare così artefici proprio delle loro ricette. Davide, noi abbiamo pochi minuti, però io vorrei capire che cosa hai pensato per te. ho pensato una mia giornata tipo. Dai. Che può essere quella di alzarmi, prendere uno yogurt al naturale con un po' di muesli, in maniera da poter fare comunque una colazione rapida. Sì. A metà mattina mi faccio uno spuntino con frutta di stagione. Tornando a casa, la gentile mamma mi prepara una buona pasta integrale con, o di kamut con un sugo di pesce o di pomodoro. A merenda torno sulla frutta di stagione, magari con una fettina di pane. Sì. Integrale. Integrale, e... vedi che aggiunge subito. Ti aggiungo, sì. È diventato un tormentone. E alla sera? Sì, davvero. La sera, innanzitutto, tornando a casa, sono le mie energie nervose, invece che sullo spuntino al formaggio, su un po' di verdura di stagione cruda. Che toglie, no, la più grossa, diciamo la verità. Esatto. E poi a una cena ho pensato a una frittata di albumi con una buona insalata o una zuppa di farro. La frittata di albumi, ma dottoressa Reverso, questo uomo è cambiato. Direi proprio di sì, complimenti Davide, bravissimo. Allora Davide, noi vogliamo far avere sicuramente un CD degli Alti e Bassi. Sì, anche perché ha scritto nel nostro spazio Facebook, lo ringrazio, chiedendoci dove poter recuperare il disco, allora gliene regaliamo una copia. E noi soprattutto, Davide, continua così, grazie per essere stato così perfetto nel tuo cambiamento, e chiedi ai tuoi amici di sostenerti. Dottor Ongaro, Marco, dottoressa Reverso, Andrea, vi saluto e vi ringrazio, appuntamento a domani. Essere e benessere.